ma chi gli ferma il passaggio? L'ho già tagliato, eh. Ah, è tutta fetta, è pronto? Sì. Oh, ma com'è bravo quel ragazzo. Va bene. E lì su un paio io non ho la carta giusta. Quella, va bene quella, signor? Sì, sì, va benissimo. Va benissimo. Non quella... Sì, sì, questa. Quella, sì, bravo, sì. E poi c'hai anche un salamotto italiano. Alimento completo per cani e gatti. Ma che Gesù! E volpi. Ma non è che i gatti rubano le cose che dai alla volpe? Forse, ma non è quello, c'era proprio un rotolo. Ma l'ha fatto apposta per farmi ridere. Tira questo che sono è stupido. Quale uso? Ma può non lo so. Deve fare un po' lo stupido. Ah, sembra le pene un po' quasi corto. Non lo è corre perché vengono peggio che peggio quando vedono quello. È di pietra, è buono, papà pietra. Ti porta sempre, ma le vuole un bene ai gatti. Poi è venuta a terra, ha portato anche lei, terra, diceva che un gatto era malato agli occhi, poi dopo ha detto che era guarito, mi ha lasciato la medicina lì sopra il contatore. Ah! E tu gliela dai? No, adesso partendo mi ha detto io te la lascio. Perché una persona sola è difficile che possa. Quel brigandum di un brigandum, ognuno tenga sulle parti dei briganti, a me non me ne sto, per me sono sempre briganti. Sa cosa si è messo a fare? È venuto, entra come vuole. Si è attaccato la luce su nell'irrascar. Adesso sarebbe da denunciare l'Enel. Ma dove? Qua su? Ma già, l'embrigamo è straordinario. E se uno dice, per esempio, io dico all'Enel, ma guardi che c'è un ladro, c'è uno che viene. Perché che viene preso, ti è aumentata la bolletta della luce? No, non paga lui. È un abusivo, su per i fienini il tragico. E tu paghi? Ah, lo pagherò proprio, io ho lasciato da pagare alla banca. Ah. È il vero delinquente. Ma scusa, ma hai mai visto la luce su? C'è tutto venuto a fare abusivo lui. Tondano, c'è il video. Era pieno? Sì. Ma dammi un chi lo sa cosa ha fatto? Non l'avevi bevuto tutto? Perché a me il fa che lo vedano, fa un nascondiglio qua sopra. Ma proprio fare così è cattivo, eh? Eh sì. Non è un uomo retto, ma è già per qualcosa. Però, Dina, non è un uomo retto, ma non è nemmeno troppo cattivo, perché sennò... No, mi avete già ucciso! Oh sì sì! Se seguiamo i giornali, sì sì! Quindi secondo me ti vuole bene in fondo, vuole starti vicino. Oh ma! E ti ruba qualcosa per starti vicino. A voglia! Cari ragazzi, lo so però che ha voglia! Ha già quasi tentato! Di che cosa? Di farmi fuori! Ma no! Se ti fa fuori, perde tutto se ti fa fuori. Ma adesso che le forze lì dei carabinieri non si fidano, perché nessuno lo sa e glielo sa indicare, e perché hanno paura. Ma bosco. Sì. E allora va a sapere che giriamo. Pulito non è, perché non si fa vedere, e c'è di notte a fa pure le brigandate, tira via della legna e porta via. là una metafora che facciamo un po' di più, penso. Perché già là anche con la... dei pezzi di legno in più. E dove? Che l'anno scorso è andato a strappare le tavole in una casa al Crest e tirar via. Ah. Vorrei tanto io che fosse un uomo a posto. Un po' un brigampo lì. Sì, sì, non bisogna dire, non bisogna dire. Bisognerà dire con un buon bastone. Ma no, io non sono... Anche il parroco non mi aiuta. Allora, lascia lì. Io non sono capace, vado poi a vedere cos'è l'inferno. Chi non perdona. Glielo ho già detto al parroco che non gli perdonavo quello lì. Adesso dica a lei, faccia lei il prete adesso, mi faccia la condanna. Non ci riesco a condannarti, Dina, come si fa, dai? Si chiama... Secondo me faranno un'eccezione per te. Ti mandano in paradiso anche se non perdoni. L'unica. Sarai vista da tutti, sarai andata in paradiso, sarei vista male perché hanno detto quella lì non ha perdonato eppure l'ha mandata qui. Perdonare... No, no, era il detto, perdonare sì, ma dimenticare no. Puoi fare così. È così. Il cappuccino dice sì. E poi buono anche l'acqua posso. Ma era ancora un po' di vino in una bottiglia. Ma lascia stare, va bene, dai, stiamo... Abbiamo bevuto il nostro buon bicchiere. Allora, che vi è venuto qua di freddo, dammi su quello. No, guarda, questo qui invece è diventato caldo, va. Secondo me... Ecco, grazie, signori. Mi sto abrasando. Questo è l'arice spagnolo. Spagnolo? Eh? È l'arice? L'arice è la legna più secca che c'è. Calda anche un po'. Mi verrebbe voglia di appoggiarlo così com'è, senza piatto. Che dici? Che fai tu come vuoi, ti dico poi tu. Ah, che piatto che mi pintato? Dici così. Alla salute di Federica. Sì. La bella Federica. Adesso mi stai facendo rimpiangere. Ma sai perché non mi piaceva tanto a me? Perché era di Milano. Strana sta cosa. Invece quella foto. Vabbè, le milanesi, fatta, eh? La foto l'ha fatta Alberto. E Alberto è di Varese, no? Di Varese. Appunto io. È così. Oh, ma adesso guardo poi il mittente. Ma Marina, guarda che buon odore fa, c'è brutto un po'. Eh sì, Così. Dai, è praticamente pronto. Ma sembra che vorrebbe quasi dirmi qualcosa, ma... Io? Parla un po' con gli occhi. No, io sono... Sono contento di essere a Champoluc proprio. C'ho bisogno. Patria. Che il ghiacciaio ha vinto di nuovo un valdostano? Quello lì. Che non viene il nome. Il fratello Diva. Ah, Simone. Ha vinto di nuovo il chilometro lanciato. Si mette un massacro a Cuina. Invece questo l'ho fatto in Svizzera. Simone. Ivan? Ormai sarà poi finito il chilometro lanciato. Andavano bene che erano riusciti ad andare una volta in coppia. Beh, quattro volte di fila campione del mondo è tanto, eh? Sì. È pronto. Allora, che bisogna dare il primo? A lui. Se ci usa. Ma se le piace l'idea, poi lei mi ha corto. Le piace questo un po' arrostito. Sì, è il migliore. Tienilo te questo. Eh? È più buono? No, guarda, io ho già preso la parte grossa, quindi è stata un po'. Ma l'odore ce l'ho buono. Ma buono. Ma che bravo che è venuto a portarti un amico. Era poco per noi due, così. Lei ha fatto la sua gita, la sua compagnia. È bravo lui che mi accompagna. Ci vuole un po' di pazienza. Papà, mamma, sorelle. Il bimbo cresce. In pancia, sì. Stanno tutti bene. Che bella cosa, me. Elena è in Francia. Che finisce gli studi. La piccola. Lei? La piccola, la mia sorella piccola. Allora, in principio inverno. È partita quest'estate. Dai ragazzi? Ha un fidanzato. Dai ragazzi e... Adesso è lì col suo fidanzato. Non ci siamo capiti. No. Ho capito che lei mi avesse detto, sai che sono diventato. No. No, no. Ho capito così. Mia sorella è andata in Francia. Cioè, una sorella che aspetta un bimbo a Milano. Quella che ti ha fatto la stellina. Ah. Sì. Lei aspetta un bambino. Si è sposato un francese. Brava. L'altra, quella più piccola, sta studiando ancora. Ed è in Francia. Con un fidanzato italiano. Oh. Invece l'altra è in Italia con un marito francese. Un po' di confusione da famiglia. È così. Allora, Silvi. Qual è Silvi? Silvi è quella che aspetta il bambino. Ah, giusto, giusto. Ah, il signore non capì, ma c'è ancora però l'etichetta. Lì. Era per lì. C'è? No. E che cos'è allora quell'affare che tinghiano lì? Questa? Non è quello che ha fatto con la sorella? Sì. Ah, c'è? Sì. È sempre il ricordo di un Natale un po' più lontano. Ha mica preso il suo? No. Che io ho il piatto e voi no? Ah, vediamo un po' magari a pasto ci sono ancora la neve. La mostra. Penso di sì. Che delicca. Speriamo. Dovresti. Ma non è poter dire grazie. Devi dirle, se la vedi, di suonarmi da Vigorelli. Sì. Sopra la macelleria di Maurizio, così se ci sono, ci vediamo. Sì. Buono. E veniamo a trovarti insieme. Il mio marito ancora non è consacrato. No. L'ha visto Don Pietro. Il parroco? No. Un parroco di Milano, che era stato ammalato. Adesso si vede che più o meno ha ripreso vita. Ma voleva mandare un pacco. E mi ha detto, al solito, lo dava a scusa, Donatella. Quest'anno è passato un po' di anni, lui era stato in ospedale, non si è tanto usato. Ha detto, ebbene, lo lascio poi dal parroco. No, già adesso vedrai più mia zia che me. Mia zia viene spesso, adesso che ha la casa bella. La zia Donatella. Ah, la moglie di Marco, no? Che è morto, che hanno dedicato la cappellina qua. È Marco. Ma chi l'aveva lasciato da Donatella? Io ho capito che Donatella aveva un pezzo da darti. Da mettere qua alla cappella. Ma che gliel'aveva dato a Donatella quel pezzo? Non ne so niente. Ma sei mica sonnambulo? Ne dici? Donatella? Ho detto che viene su a trovarti. Una Donatella? Ah, non quella del negozio. No, mia zia. Ah, lei è una... Stavamo parlando di un'altra Donatella. Ma Donatella è uno zio suo? Quello dell'abito? Dell'abito? Ma hai detto che avevi una zia? Sì. Che ha 6 figli. E che era sposata con Marco Vigorelli. E qui ha messo la targhettina di questa cappellina. Che erano molto religiosi. Montellaria, lo prego il coltello. Sì, ma basta. Questo qui è mio. Su. Questo qui si è. Ma ne mangi ancora un po' mio. E lo pianto un po' a lui che poi. Ne vuoi? Io no. Ma no, allora, guarda che. Siamo a posto, signor. Diciamo che non è mio, l'ha portato e non me l'aveva detto, se torno porto un panettone. Ma non mi ha poi detto di non mangiarlo. Io ho sempre aspettato che lei a Natale, prima di finire le vacanze, fosse venuto. Poi ho detto magari è andato in Francia, in Belgio. No. Non c'è niente. Ci siamo capiti un po' e un po' no. E ben mangio tutto io, se ne volete ne mangiate. Hai e io faccio la mia cena buona. Al pensiero di questa signora. E chissà quando sapremo se è riuscita a fermare quel signore. E poi io ne so poco, né nome, né cognome, né abitata. Buono era buono. Complimenti, grazie. A Federica. L'abbiamo poi già bevuto. Quanto? A 6 conti lei che insegna. No, io volevo sapere se quelli dei gatti delle nevi vengono a trovarti di notte? Ogni tanto? Orche John? Un bel patois. Adesso sono troppo vecchia io e loro sono troppo giovani, sono partecipati quest'anno e 30 mesi. Qui lavorano tantissimo, sono 30 mesi nel campo, vedo campamento, sì, sì. Ancora sì, sì. Quindi non hanno tempo di fermarsi qui? Di qui che è passato un giorno. Passano perché... tutta la notte, sulle piste. È dura, eh? Forse se riescono a far tutto. Tutto. Il primo giro devono ben farlo un po'. Dovranno farlo un po' per tutte le piste, un pochino. Quando è tanta. E poi pian piano, perché si daranno anche un po' il cambio. A mezzanotte io li vedo che sono ancora su. Perché uno solo è poco, non può. Uno o due, col pericolo delle valanghe, no? Ma prima io ero anche più giovane, in qualche occasione. Quest'anno potevano anche non spararla la neve. Però non lo sapevano. Avranno risparmiato. È il Birrio di Prola dove ce n'è forse di più, a Mucchiotta. Hanno risparmiato, bravo. Hai scelto la cosa bene. Ne avranno risparmiato dei miliardi. E a casa andate oggi o domani? Domani. Andiamo domani sera. Dobbiamo anche lavorare un po'. A Campolito? Le cose sono fatte così. Per lavorare? C'è sempre qualcosa, dico così, no? Ah, no, ma devo pensare a delle cose per la scuola. Non devo fare lavori di casa. Io pensavo che la casa dovesse già essere un po' guardata da quando sono mancati i nonni. Beh, ogni tanto qualcosina sì. Sì, si spende troppo di riscaldamento perché è un condominio enorme, non c'è mai nessuno e il riscaldamento va sempre. Uno spreco stupido. Troppo. Bisognerebbe fare che ogni appartamento ha il suo riscaldamento. Invece così... parlano già tutti che aumenta la carta, tutto. È così. La febbraio è quasi tutti gli anni che comincia a aumentare. Una cosa, poi l'altra, e c'è sempre un aumento. Ce n'è di quelle cose di casa che... Sai quanti anni ci vuole per fare il gas? Il gas che si brucia nelle case. Viene da foreste che milioni di anni fa si sono morti gli alberi, è arrivata l'acqua, ha coperto tutto e la legna degli alberi piano piano si è trasformata in gas, ma ci ha messo milioni e milioni di anni. E adesso noi in 100 anni l'abbiamo bruciato già a metà. Noi siamo dei malviventi per i nostri storici. E quella che ha usata bene. Grazie a Dio che ce la mandi, facciamo delle grandi cose. Ma quella che sprecano, quella che distruggono inutili, ti verrebbe più voglia, sì, quelli che meriterebbero, no. Non ascolterebbero niente nessuno. Ordini distruttivi, lo vedi pure? Bisogna fare un buco. Padrone si fanno tutti padroni. Poi in quel buco mettono quello che vogliono. E cito, è per far la media. E nessuno non sa parlare. Bisogna che i giovani possano farsi una vita, che i giovani possano avanti, trovare il lavoro. Dina, c'è il telefono. Però devi fare un momento, ho mangiato troppo. Pronto? Oh, ha smesso. Pronto? Ah, sono Xavier. Ciao. Sono Xavier. Ah, ok, sì, tra poco andiamo via. Va bene. Glielo dico, sì. Va bene. Ciao. Era Alfonsina. Ah, una volta ogni tanto telefono. Ha detto che richiama più tardi. Ma deve sempre girare. Guarda, se ne vuole ancora un po'. No. Invece la bottiglia, se voi due siete d'accordo, proviamo a lasciarla fino a quest'estate, se venisse questo ragazzo. Sì, sono molto d'accordo. Per voi due è garito. Sì, è... Te lo ricordi? È garito. È per Federica. Ecco. Gli dici che noi abbiamo mangiato il suo panettone e lei gli mangia il nostro. Lei beve. Da Giovanni era un amico e mi hanno detto poi di ringraziarmi. Io lui non ha detto niente. Lui vuoi che ti rimettiamo a posto il panettone? Te lo rimettiamo nella sua busta? Oh, è bravo se me lo fa. Lei ha le mani delle carte, tanto devo metterlo via bene. Ma che cosa, dobbiamo portare con la linguaggio non gli ho parato, perché lui è quello che vuole e lo trova tutte le porte dove c'è. Da quella c'è la busta, eh? Sì, c'è tutto. Ma lo rimettiamo così. Perché qua? Ma non va fermi a mangiare a questo e bere, ma non è poi dello stesso padrone. E poi da ricordare che la bottiglia è di voi due, io non so. Ma si sì. Vabbè, non si ricorda, ma non essere giusto, non ha padrone. È collettiva. Noi ti abbiamo fatto mangiare troppo. Abbiamo conosciuto e l'altro è venuto fin qua. Scusa Dina, ti ho tagliato una fetta troppo grossa. No. Ho fatto bene. Sì, ho fatto bene, perché io adesso mangio. E poi dopo sono tutta, non voglio fare la minestrina. Non va bene. Ma la minestrina calda fa bene. Formaggio. E noi riprendiamo la strada di casa? Ma prima che faccia buio. Andiamo giù. Andate di qua? Non so, se andare sulla pista facciamo prima. Andiamo sulla pista. Facciamo prima. Adesso che ore sono? Ma adesso... diciamo questo, mettiamola con un po' di tempo, perché penso che veda da lassù. Qui sopra lui ha le sue osservazioni come per il tempo. Allora meglio che metti un po' di giornale. Ho dovuto aumentare una porta, ma adesso devono aiutarmi gli operai lunedì. Ma perché senti, questo calorifero ce l'ha già? Ciao. Questo è nuovo? Questo è per scaldarmi al mattino. Perché al mattino abbiamo avuto dei giorni tanto freddi. E lì ti accendo. Ma quello è mica pane, no? Questo è il suo pane? No, questo è formaggio e mele. Ci sono i mele. Ah, ma non ce l'ha il sacco? Sì, fuori. Sì. Tu vuoi un po' di toma? No, devo ancora mangiare, ma ho portato a assaggiare un po' di oggi, ho mangiato questo. che ci voleva mangiarlo oramai. E poi dopo loro lì mi hanno portato, qui si usa verso Natale più o meno, loro sanno poi la luna giusta e tutte quelle cose che vanno bene per lavorare sta carne di maiale, fare il salame. Allora quando poi è fatto tutto pronto, già un po' secco, te ne portano a assaggiare. E sì, uno però io, veramente sarebbero due impresari perché ci lavorano tutti e due. Questa settimana hanno avuto due ragazzi che venivano da giù a Donas, da quelle parti, fare dei lavori su, mettere forse elettricità. C'è uno che lavora con Giulio, un giovane di Ivrea, giù di lì. Con quale Giulio? Questo qua? Quello che ti è sposato? Ti è sposato Giulio? E Giulio quel piccolo bello che sposa quello del Cervino, no? Ehi Dina, io non conosco nessuno, non lo so. Non lo so. Giulio il muratore, quello di Crest. Che lavora con Giulio a Chiuneo. Sì. Un ragazzo, Maurizio, no. Caro, caro, adesso aveva anche il cane quest'estate. E lui ha un amico carissimo che alleva i maiali e fa tutti i salami, le cose. E non è Mario, oppure quello di Fontaine Moore? No, è uno di Judy. È Judy lui? Sì, sì. Ah, ma io più... però suo papà non ha voluto andare a nozze. La povera ragazza gli ha sofferto un bel colpo. E così si sono presi un bar ristoro a... dove c'è la battaglia del regime? A Bruxelles. E vivono poi lì. Non sappiamo, cioè, sono quei vecchi rancori di certi padri, certe volte quello. Sì, nessuno ha fatto correre voce che ne sapesse uno più di un altro, ma non ha ceduto, non è andato. Mi spiace, lo vedevo ogni tanto passare. Poi conoscevo bene la mamma, mi ha portato, mi ha mandato una torta per lui. Molto bravo, anche Giulio le voleva bene. Guarda come l'ha conosciuto Fineo. E non so se stiamo parlando della stessa persona, comunque. Ma sicuro? Magari sì. È uno molto simpatico, questo te lo posso dire, ma molto. Caro, qua è veramente caro quello. Se è la stessa persona, o se no sono due persone care tutte e due. Non lo so. Ma è che lei sabbia, si è sposato da autunno? Ma non lo so. Lei è vissuto a Milano e... sì. Non saprei bene. Spero. Sì. Quando era, te l'hanno andati un po' di Chiuneo, un po' delle funivie, non parliamo poi Giulio e... No, ma siamo tutti contenti, per quanto lo conosciamo, li abbiamo voluti bene. Passava di tanto in tanto e anche lì a Chiuneo. Il papà va a sapere. Mi spiace per loro due, ma si sono poi sposati giù nel suo paese. Dina, facciamo che... Che dire? Arrivederci. Arrivederci. È un pensiero grosso, grosso alla nostra cara. È contenta che sia venuta lei, ha portato un amico, perché così non eravamo solo noi due, abbiamo chiacchierato, abbiamo bevuto, mangiato, adesso siamo felici. Bisogna un giornale, è un piatto, sole... ma poi già rotto, che... va bene, meglio questo che l'altro. Dai, senti, boh, spero di rivederti presto. Va bene, e stia bene lei, saluti chi vi ha detto che è venuto qua su, grazie di avermi fatto conoscere questo amico che è venuto qua in compagnia. Cioè, Fabrizio, adesso te lo devi memorizzare, perché... Lo farà memorizzare. Sì. Sì. Lui sì, magari quest'estate facciamo ancora un salto. Magari. Sì, vengo a vedere dove il lago deve fare. Non solo. Vedere se vede un cervo. Quest'anno mi ha accompagnato a fare un giro. Siamo andati da Champorcher col Fenêtre, siamo andati a Cogne, tutto a piedi, eh. Poi siamo andati a Aurus. Poi siamo saliti al Vittorio Emanuele, in Val Savaranche, penso. Dove c'è, c'è, pare che dicano che c'è una foresta, ma forte, dove passava Vittorio Emanuele. Può darsi, perché c'è il rifugio Vittorio Emanuele. C'è. C'è. Di Pietro va spesso, dice che c'è una foresta. Mm. Il parco. Ma... una grossa foresta e in mezzo è tracciato la strada dal duca, non dal duca, dal re Vittorio.